La borsa della spesa. La donna è armata! Scappiamo o si castiga! Passa parola! Ha detto facciamo una risata e distruggiamo la diga, la schiumarola! Keeper! Alex vuole distruggere la diga! Kowalski, a tutto gas! Tiralo su! Ci ammazzeranno! Ci deve essere un altro modo! Passa parola! Dicono non tirarlo su, ammazzaci! Non c'è altro modo! La schiumarola! Sei sicuro? Già, questione delicata, il passaparola se prende la piega sbagliata può combinare disastri, soprattutto quando si parla di brand e prodotti. I consumatori, rivelano le indagini di mercato, scelgono, basandosi su consigli degli amici, in una percentuale che va dal 60 al 90%. Ecco perché le aziende sono sempre più attente al monitoraggio del passaparola, non solo quello online, che in gergo si chiama buzz, chiacchiericcio, ma anche quello tradizionale. La società di consulenza Bain & Co., tra i leader mondiali di settore, 47 uffici in 30 paesi nel mondo, ha messo a punto un nuovo indice. Si chiama indice NPS per misurare il valore economico del passaparola, per capire quanto incida il ruolo che gli stessi clienti hanno nel promuovere un determinato brand facendogli pubblicità tra amici, parenti e conoscenti. Ne abbiamo parlato con Andrea Petronio di Bain. Il passaparola è una semplice metrica però molto efficace, perché di fatto è quella che consente di vedere chi è veramente contento, di quindi è felice di essere cliente o di intere di comprare un prodotto. Quello che è emerso è che c'è una fortissima correlazione tra questo indice che noi chiamiamo NPS, Net Promoter Score, e la performance aziendale. Si chiede, ma tu raccomanderesti che misura raccomanderesti un prodotto, un negozio, un insegno, un servizio, cioè quanto sei contento? E facciamo una domanda semplice che è questa, la risposta va in scala da 0 a 10, se uno prende 9-10 viene definito un promotore, cioè colui che poi raccomanda e quindi genera il passaparola positivo, se uno invece risponde sotto il 6 è un detrattore. Si parla tanto di clienti, ma poi spesso nelle metriche aziendali si guardano i conti economici, si guardano altri indici, non c'è mai qualcosa che invece misuri questo fenomeno, e siccome è correlato anche al risultato economico, questo è il vero indicatore di una crescita sana e profittevole. A medio termine, secondo me, l'offline e l'online confluiranno in un unico fenomeno. Tu hai un consumatore che può arrivare a comprare il tuo prodotto attraverso tanti canali, è tutto integrato e non puoi che non tenerne conto e misurare la sua soddisfazione, o meglio la sua fedeltà, perché questo è un indice di fedeltà, è fondamentale. L'indagine ad hoc svolta nella grande distribuzione ha rivelato ad esempio che a guidare i consigli dei consumatori non c'è solo il prezzo ma anche l'assortimento, uno dei motivi per cui si sceglie un supermercato anziché un altro. Le cose fondamentali dipendono un pochino dalla tipologia anche di canale. Se guarda i promotori nel canale discount, il prezzo rimane oggi ancora la variabile più importante, però l'assortimento, se vogliamo, quindi quello che uno propone, è comunque, indipendentemente che parliamo di un ipermercato, un supermercato, un discount, l'elemento centrale o scatenante poi la soddisfazione e la fedeltà.